I pidocchi? No, non l'ho mai avuti. Ne conosco uno però di pidocchio. Ci sei tu, Parenzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. A Cruciani dico, togli Parenzo, chiama me, vedrai che faremo più audience. E poi, rispetto a Parenzo, io sono uno scienziato e lui un microbo. Ma lo sai che l'ha detto in un'altra trasmissione di Radio 24 il signor Buonanno? Cosa ha detto? Ma quello che... Ma mamma mia, ma non sei questo, attento. Ma l'ha detto in un'altra trasmissione o da noi? Perché dice sempre le stesse cose. In quale trasmissione? Quella degli animali? Quale cosa ha detto? Cosa ha detto? Che sono un microbo. Sì, no, ma che cosa ha detto prima? Prima di dire che sei un microbo, cosa ha detto? Non lo so, non ascolto Buonanno con la stessa intensità, cioè, allora, con la quale posso ragazzi, ascoltare Bauman. No, ma state attenti a quello che è successo. Cioè, inizia la trasmissione alle 18.35 e Parenzo non gliene frega una mazza. No, di Buonanno niente. No, ma non è Buonanno. Totalmente poteva essere in onda nulla. Qualsiasi cosa. No, tu ma eri, in particolare Buonanno. Stai là per gli affari tuoi, con i piedi sul tavolo. In particolare con il iPad davanti a pensare alla 7, la domenica. Che, no, ma che sto quello... pensando a denunziare questo qui, questo signore, anzi. Allora, bravo. Rimandiamo Buonanno questo un'altra volta. Signor Gianni Strano, che ha tolto da Facebook gli insulti vergognosi che mi ha dato e che leggeremo, lo ha tolto per paura. Mamma mia, no? Come sei soltanto perché da io ieri cosa. Ho detto che avrei votato al referendum e vado no, e questo infame signor Gianni Dio, Strano su Facebook ha scritto Parenzo vota no, e d'altronde l'Italia ma non è questo il punto. E d'altronde l'Italia non è il suo paese, le sue origini vengono da molto lontano, culturalmente e religiosamente, quindi dovrebbe stare zitto, torni a casa sua, se non gli sta bene nella nostra terra e politica, quella sana, si metta la trivella a casa sua. Questo per paura poi ha cancellato tutto. Ma questo è un coglione, dai. Ma questo è un coglione. La gente deve smettere di usare Facebook come non fosse niente. Ma che cosa niente. Ti ha detto? Ti ha detto che non sei italiano, no, ma chi se ne frega, che devi fare? Poi tutto il resto, che sto pubblicando. Adesso le sto raccogliendo tutte e le pubblico, perché le ha tolte tutte. Facciamo risentire Buonanno, perché il signorino era disattento mentre inizia la trasmissione. Era disattento il signorino. A Cruciani dico, togli Parenzo, chiama me, vedrai che faremo più audience. E poi, rispetto a Parenzo, io sono uno scienziato e lui un microbo. Ma sull'audience non sono d'accordo, no, sono d'accordo su tutto. Come sei d'accordo, su tutto? Prova, sono d'accordo su tutto. No, davvero, sono d'accordo su tutto. Il suo vero posto, peraltro, è il comico, quindi non il Parlamento europeo. Quindi, se la mia dipartita da qua porta alle dimissioni dalle istituzioni europee, farai questo sacrificio. Avremmo guadagnato un pirla in meno al Parlamento europeo, pagato coi soldi nostri, e un giullare in più in questa straordinaria trasmissione, quindi ben venga. Cioè tu dici ad aggiunta, dici no, detto, no, no ad mi aggiunta. Abbastanza chiaro. Cioè ti potresti sacrificare, in nome della dignità dell'Italia, ecco. Beh, questa no, è la cosa. E delle istituzioni europee. Vabbè, sì, quello che è, insomma, della dignità dell'Italia e delle istituzioni europee. Sì, esattamente. Molto bene. Allora, vogliamo iniziare con una cosa molto molto leggera, eppure no, che è la vicenda che è stata rilanciata da Striscia la Notizia, cioè che viene da un'intervista dell'allenatore, ex allenatore del Milan, Mihajlovic, caro Parenzo, a Striscia la Notizia, come al solito è andato lì, sta Feli con il suo bel tapiro, dal signor Mihajlovic, perché è stato cacciato, eccetera, eccetera, il tapiro, le solite robe. A un certo punto, in maniera abbastanza innocente, secondo me, Staffelli nomina la SAT. Allora, chi è Melissa Satta? Come sapete, molti magari non lo sanno, è una showgirl, nonché fidanzata, moglie, forse non so esattamente in che condizioni sono, di Boateng, un giocatore del Milan che è tornato al Milan quest'anno e che ha fatto molta panchina e che pare non fosse signor molto Boateng. Non sai nulla tu di calcio. Boateng con la G finale. Boateng. Io di calcio conosco due cose, Auriemma e Tiki-Taka. Sono due cose di calcio che conosco. Auriemma, cioè tu mi dici cosa è il calcio, cosa associ, quale parole associ al calcio, e io ti dico Auriemma. Sì. Ma tu puoi capire qualcosa dell'Italia, della società italiana senza sapere nulla di calcio? Tu non puoi capire nulla. Questa è una considerazione vera che fate. Infatti, da oggi mi metterò a studiare di più il calcio. Ma sì, ma questo, su questo hai ragione. Conosco anche quel signore dell'Atalanta. Come si chiama quel signore lì? Boccia, zio Boccia. Il signor Boccia, come lo conosco, il signor Boccia. Conosco il signor Geni La Carogna, ad esempio. Ecco, anche il signor La Carogna conosco molto bene. Signor La Carogna. Un po' di cose che conosco allora, anch'io. Cosa cioè. C'entra Mikhailovic alla Sate? Dice, perché fa una considerazione che, su cui vale la pena, non dico discutere. Perché noi non discutiamo, non vogliamo fare un consesso di filosofia. Lui dice: le donne non possono parlare di calcio. Sì. Poi dice pure: non sono razzista, che non c'entra una mazza con il razzismo. Comunque, sentiamo. La Satta ha visto cosa ha scritto? Che nello spogliatoio c'era tensione. Io penso che comunque non sono razziste, però donne non dovrebbero parlare di calcio perché comunque non sono adatte a parlare. Lì, serbo, hai sentito la superbia del serbo? Scusate, cioè, la signora d'amico non sa di calcio, ma qui siamo impazziti. Allora, cioè, dice, la prima offesa che lui ha fatto era l'ottima, che ma quella che c'entra, che peraltro conosci anche tu, credo. Tutte, no? Ma offesa, ha detto una cosa senza senso. Diciamo la verità, una cosa senza senso. Mi piace però la fierezza. Questo mi piace. Cioè, se proprio uno deve essere per forza controcorrente, in questo caso non me la sento di dare ragione a Mikhailovic. Francamente, non me la sento perché insomma, a me non mi interessa se uno è donna, uomo, transessuale, c'ha il pisello. Eccetera, eccetera. Non è interessante. Quando uno parla, giudico quello che dice. Punto e basta. Che lo dica la Satta, che lo dica la mia amica Barra, che lo dica, che ne so, un'altra donna, la Calcagno, altre donne, la signora Ferrari. Eccetera, eccetera. Bravo, ecco, ci sono altre donne, signora D'Amico, naturalmente, in questo momento. Come dire, noi impossibilitata a condurre programmi, non mi interessa se una è donna ma si è fidanzata con quello, uno parla e uno giudica su quello che si dice. Dunque, caro Mikhailovic, forse andrai anche alla Lazio, alla mia squadra, ad allenare l'anno prossimo. Mai detto una cazzata, una enorme cazzata di cui spero ti sia già pentito, cioè... però sei serbo e non sei facile ai pentimenti, eh. Ragazzi, però diciamo la verità, fanno molto discutere le affermazioni fatte ieri alla Zanzara del padre di Vanessa Russo. Vanessa Russo è una ragazza giovanissima uccisa per quel maledetto ombrello. Non se ne sarebbe parlato più di questa signora, perché tutti avevano dimenticato questa vicenda, no? Uccisa dalla romena, la Doina Matei. E se ne erano dimenticati tutti, tranne che a un certo punto sono spuntate fuori queste foto su Facebook di una donna già da tempo insieme in libertà, foto al mare, ne abbiamo parlato molto nei giorni scorsi, e dopo le foto al mare il giudice l'ha fatta rientrare in carcere. Il padre ieri da noi qui, molto molto arrabbiato, ha detto di non credere assolutamente che la signora Matei resterà in carcere, verrà liberata presto, ci saranno i ricorsi, contro ricorsi, quant'altro. Poi ha pronunciato una parolina che si chiama pena di morte. Ma secondo lei che cosa merita una persona come Doina Matei, una che ha ammazzato con un ombrello? Che merita, la vita umana non c'ha. Lei è a favore della pena di morte? Lei è a favore della pena di morte? Io sì, guardi. Non è cattiveria la mia, non è cattiveria. Però ci vuole. Ma lo direbbe anche se non fosse sua figlia? Certo. Figlia ammazzata con cattiveria e crudeltà. Entra 10 centimetri. Mia figlia doveva correre addosso alla punta dell'ombrello. Quella corre. Ma stiamo scherzando, diciamo di sbuffonate, perché io queste cose non ce so. Perché sennò mi arrabbio, non le devono lo dire. L'ammazzata e basta. Con cattiveria e crudeltà. Allora, ovviamente la politica, caro Parenzo, si è buttata a pesce su questo argomento. Buttata a pesce. Bravo. Sentiamo, per esempio, secondo te, quelli più accaniti nei confronti della signora Matei, prova a immaginare. Potrebbe esserci qualche autorevole esponente della cosiddetta Lega Nord per la fu indipendenza della Padania. Potrebbe esserci qualche giornale, tipo il Quotidiano Libero, tipo il giornale diretto magistralmente dal signor Sandro Sallusti. No. Potrebbe esserci qualche esponente della destra, tipo la signora Meloni, potrebbe esserci allora, qualche esponente. Centinaio, signor Centinaio, eccola, Lega, eccola. No, che però tra l'altro molto è considerato bene, pure uno di quelli più moderati, no, signor Centinaio? Detto, dopo chi? 9 anni ti fai una foto, ti vengo a cercare, signor Centinaio. Ti vengo a cercare, stato di diritto. Senti, ti vengo a cercare. Lo stato di diritto trionfa con Centinaio. Io metto nei panni di qualsiasi genitore o di qualsiasi parente che vede ucciso un proprio caro. E dopo 9 anni su 16 questa la vedi in giro, fare le foto su Facebook, farsi bella, in vacanza, che cosa. Ma io ti vengo a cercare. Cioè, secondo Centinaio, il padre, non so chi, doveva andare a cercare la vendetta privata romena, la signora Matei. E poi naturalmente dice butto via la chiave, dai. Nel momento in cui, come stavamo dicendo, una persona uccide un'altra con un'ombrellata in un occhio, io sono dell'idea, ma questa è una mia idea personale, che, come ha detto, che avrei detto, che si butta la chiave. Io ti metto dentro e ti butto e butto via la chiave. Da notare la risposta di Sallusti alla Gruber al tema hai rotto il fidanzamento, il legame con la signora Santanchè. Io do ragione però alla Gruber, perché siccome loro sono personaggi pubblici, esce una notizia, la signora Gruber dice, ma è vero o non è vero? Non è che ha detto dei dettagli di vita privata. Ha chiesto al signor Sallusti, che ha risposto anche bene, devo dire, ha fatto però una domanda corretta, giusto? Alessandro, abbiamo letto su Dago Spia che tra te e Daniela Santanchè l'amore è finito, ma è vero? A casa tua va tutto bene, è tutto tranquillo, sì. Sì, a casa mia sì, no, però cercavamo di capire se tra di voi è tutto a posto, possiamo stare tranquilli? Ma anch'io sono curioso di sapere come va a casa tua. Vabbè, io ho risposto e tu non ci hai risposto, in ogni caso grazie lo stesso, grazie Sallusti. Ti devo dire che sentendola meglio, la signora Gruber poteva anche insistere un po', no? Cioè, è una notizia pubblica, siete personaggi pubblici, ma lo sono anch'io, cioè non mi scandalizzo se mi chiedono, anch'io intendo la Gruber. Ma guarda, quello che fai tu lo sanno tutti tranquillamente, mi pare, no? Tu porti i cani, i cammelli a pascolare nelle moschee, quindi a Milano è pieno di cammelli, la gente lo sa che Crociano è un amante dei cammelli, certo. Lo sanno tutti a Milano, dai, anche Sala. Sala è un uomo, ad esempio, che viene dal Qatar, è evidente. Quando sento il traffico divento pazzo. La Zanzara. Comunque, sulla vicenda Mikhailovic c'è un'interpretazione che è questa, e qualcuno dice, beh, ha ragione Mikhailovic, perché siccome c'è la donna di un calciatore che parla di dissidi interni, dice, non è che la moglie di un calciatore o la compagna può raccontare i cazzi dello spogliatoio. Dunque, secondo questa interpretazione, Mikhailovic si rivolgeva in realtà non alle donne in generale, ma alle mogli dei calciatori. Vabbè, vedremo, caro Parenzo. Intanto, che cosa succede a San Rossore, ne abbiamo parlato già ieri, che dei profughi si lamentano perché invece del riso viene servito il minestrone, cioè è acquoso il riso acquoso, si lamentano. Allora Giancarlo Freggia, vediamo un po' se lo troviamo per telefono, è quello che sta gestendo questa storia, questa emergenza dei profughi a San Rossore. Giancarlo Freggia, chiamiamo. Pronto? Sì, signor Freggia? Sì? Sì, salve, buonasera, qui Radio 24, la disturbo? No, dica. Senta, signor Freggia, io ho letto da qualche parte di questa storia del riso, me la può spiegare bene? Cioè, i profughi, le persone che sono lì, gli immigrati, si lamentano davvero del riso che è acquoso? Il problema non è che il riso è acquoso, era un minestrone di riso. Come fanno a essere acquoso un minestrone di riso? E perché si lamentano allora? Molto probabilmente ci sarà qualcuno dietro che muove, che ha interesse a creare queste cioè ha interesse a creare delle proteste da parte di questi immigrati. Delle proteste, perché vede, noi non abbiamo i profughi nei container, ne abbiamo i profughi in condomini, in appartamenti, in condomini. Sì. Che a Getta è una struttura alberghiera. Per cui stanno benissimo, diciamo, stanno meglio di molti italiani, stanno meglio, diciamola tutta. Molto. No, ecco, ma è questo che dico. Non diciamo tanto, perché sennò gli italiani cominciano giustamente a arrabbiarsi. Se te fai parte di un sistema di accoglienza, non puoi pretendere di venire. Non sei ancora sceso dal pullman che ti ha accompagnato e dire no, noi vi siamo troppo distanti dalla città e non ci si viene. Tant'è che il viceprefetto, quando loro sono andati a fare la denuncia che il riso c'era troppa acqua, che un'altra volta una denuncia così si ritira, si fa la revoca all'accoglienza, perché certo. Lei mi sembra veramente arrabbiato, cioè si è superato qualsiasi limite. Bravo, perché è una mancanza di rispetto verso gli italiani. Io ho 60-70 persone sparse tra Parco di San Rossore, posto ambito per il turismo da tutta Europa. Sì. Anzi, addirittura quella è nella residenza del Presidente della Repubblica. Bravo, per cui ancora meglio. Poi le abbiamo in Villetta Schiera, le abbiamo all'interno di appartamenti, abbiamo a Fauglia una villa dove io ci tengo il 15 profughi. Ma villa come? Certo... Villa con piscina, non mi dica. È vuota, però la piscina c'è, però per dirle il contesto. Sì, no, magari pure il campo da tennis. Brava, però c'è anche il campo da tennis. No, gli voglio dire il contesto della villa, 5 ettari di terreno, tutto recintato. Ma quanto costano al giorno? Quanto prendiamo noi al giorno? Sì, quanto prendete voi al giorno? Mi sembra che si prende intorno alle 30 euro. 30 euro al giorno io devo dargli, 2,50 euro al giorno come paghetta. L'appartamenti e ne prendo mia ecocanone, le prendo sul mercato. Ma non mi dica che ci rimette. Non ci rimetto, ma non crediamo, almeno per quanto mi riguarda, non è che io lo faccio, anche perché mi vergognerei a farlo per business. Alla fine quanto guadagna? Ma mi rimarrà 2 euro. Ma svolge un servizio. Che vuol dire quanto guadagna? Svolge anche un servizio. Ma lasci stare, Cruciani. Guardi, direttamente. Però mi scusi. Dire che siccome uno è malato, allora il medico deve pure aggravare. Non è quello. Qual è il menù settimanale, giornaliero che hanno queste persone qui? Noi, un nostro operatore, accompagna nei centri commerciali loro, che si scelgono il mangiare, che noi li compriamo, li aiutiamo se vogliono a farselo, se no se lo fanno loro nell'appartamento. Cioè si scelgono loro il cibo? Si scelgono loro il cibo? Lo scelgono, e scelgono quello che è questo che dico. Noi li compriamo, paghiamo, la portiamo a casa e loro si fanno il mangiare, oppure se hanno bisogno gli diamo una mano noi. E non possono alzare sempre l'asticella tutti i giorni, alzare l'asticella per avere sempre di più. Ecco, è questo che io ho detto. C'è anche quello che gli dici, ragazzi, ci aiutate a tagliare l'erba anche in giardino, l'operatore nostro taglia l'erba e loro no, noi si deve dare la mano. Non tagliano nemmeno l'erba in giardino, non vogliono nemmeno tagliare l'erba in giardino. Così è, alcuni si rifiutano di farlo. Lo sfogo mio è stato questo, date un segnale, quantomeno state zitti, ma non andate a litigare, a protestare, la pasta e il cerbiatto fino non lo vogliesi da noi, ma nel Parco di San Rossore i cerbiatti c'erano prima di noi, ma dove vogliamo arrivare? Questo è il concetto incredibile. Poi, gli italiani si arrabbiano, certo. Freggia, grazie Freggia, saluti Freggia. Niente, grazie a lei. Incredibile. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Ragazzi, vitto, alloggio e paghetta, ma stiamo scherzando? Ma facciamoli lavorare! Caro Parenzo, ma perché ce l'hanno tanto con te? Leggo qui, ieri sera signor Parenzo ha dimostrato nella trasmissione sulla 7 che lei è veramente un essere spregevole, dice uno. Si vergogni, forza Hamas! forza Hamas. Tu sì. capisci, uno finisce il messaggio scrivendo forza Hamas. Ho sempre detto che i social network sono una cloaca, ma questo... No, questo è un messaggio che è arrivato a me, un messaggio adesso al, vabbè, al telefono della Zanzara. Sì, vabbè, al mitico questo. Telefono della Zanzara, sì. che io pregherei la regia di rilanciare. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, dopo quello che succede con i profughi in Toscana che non vogliono l'acqua nel riso e protestano, non vogliono gli animali dove stanno, vogliono avere una residenza più vicina al centro città e vanno a protestare dal prefetto, dal viceprefetto, dopo quello che è successo in provincia di Pisa, come avete sentito prima del giornale radio, nella nostra intervista, incredibile, anche una persona ragionevole, certamente non un leghista, una persona a favore degli immigrati, una persona che li accoglie con cura, certo guadagna qualcosina come avete sentito, però non è che fa i milioni di euro, cioè non è uno sfruttatore dell'emergenza, anche uno come lui, anche uno come lui, con i clandestini, i profughi che arrivano e vanno nella tenuta del Presidente della Repubblica a San Rossore, serviti, riveriti, addirittura accompagnati a fare la spesa. Serviti e riveriti. Serviti e riveriti. Ma ti pare normale che uno viene accompagnato a fare la spesa? Cioè, vengono accompagnati. Hanno anche i badanti. Fanno i badanti. La gente fa anche il badante di questi signori. Ma no, ma io voglio capire. I badanti, ma li vuoi lasciare allo Stato brado? Li vorrai integrare? No, spiegare come funziona nel nostro paese. In realtà va tutto male. In realtà va tutto bene. Scorrazzano per il paese, non va bene. Vengono in giro per il paese. C'è qualcuno che li aiuta a spiegare le regole del gioco qua? No, non va bene perché li aiutano. Il problema è che questi protestano. Ma amico mio, ma che protestano? Protestano perché tu dici che bisognerebbe dare il riso. Il riso senza acqua, lo hai detto anche ieri. Ma te lo ripeto, adesso uno non dice di fargli il riso allo zafferano con sopra la lastra d'oro, no, ma dillo come pure, fa dillo come pure. Fa Gualtiero Marchesi. Fallo, non dillo pure. Ma ovviamente no, non dico di fare il risotto alle capesante o i tagliolini al tartufo di Alba. Non dico questo, non sto dicendo tagliolini al tartufo di Alba. No, quello no. Poi il riso, se protestano, tu hai detto per il riso fa bene, fanno bene. Se gli piace il riso e vogliono il riso con l'olio, ma non si può fare il riso con l'olio? È un no, dramma. Non si può fare, va fatto il minestrone. È previsto il minestrone. È previsto il minestrone. In caso di emergenza è previsto il riso. Sei in grado di creare della zizzania. Hai ragione tu. Su ogni piccola polemica che in realtà potrebbe avere una mediazione di questo conflitto, potrebbe esserci tranquillamente senza creare delle bombe come queste, dell'odio sociale per il riso bagnato e il riso all'acqua. Bisogna rispedire tutti i clandestini immediatamente da dove vengono, come fanno in Australia. Sei irregolare, fuori dai coglioni, cazzo, mi scrive uno. Fuori dai coglioni, basta accoglienza, alziamo barricate elettrificate e con guardie armate. Gente intelligente. Il mare è più complicato, bisogna dire. Gente intelligente. Bisogna salvare il nostro paese dall'invasione barbara, mi scrive uno. Barbara. Andrea da Bologna, vai. Ciao. Ciao, dimmi. È questo, io in Italia siamo sì, hai il viva voce? Io ripeto per l'ennesima volta, hai il viva voce? Scusami, allora, in Italia siamo o populisti o troppo estremisti, sì. Una via di mezzo, cioè, vabbè, dunque quel padre che ha perso una figlia perché una gli ha messo un ombrello in un occhio, ha ragione. In che senso ha ragione? Perché uno che uccide per futili motivi, va bene, o consapevole che sta rischiando di uccidere qualcuno, merita la pena di morte. Ma amico mio, però la pena di morte è esclusa dal nostro ordinamento. Ma noi nel nostro ordinamento. Tu dici che un padre si può permettere di dire che quella deve morire. Sì, ma nel nostro ordinamento è escluso anche che la gente debba rubare, pure viene ruba tanto, se rubi. Vabbè, quello che c'entra? Se rubi tantissimo non ti mettono nemmeno in galera. Se invece rubi poco ti mettono in galera. Noi siamo un paese. Sì, però stai facendo un discorso che non c'entra niente con la pena di morte. Generale, perché ci vuole la pena di morte, secondo te? Dai ragione al padre, ci vuole la pena di morte. Ci vuole la pena di morte perché chi uccide per futili motivi, perché chi si droga e poi mette sotto la macchina un bambino. Questo sarebbe un deterrente. Va ucciso. No, ma lo dice così tranquillamente, va ucciso, va bene, per carità. Ma non è un deterrente. Però devi avere un ago di bilancia dove chi in maniera accidentale uccide una persona avrà una pena, va bene, ma uno che uccide gratuitamente con un ombrello, e non è che merita di stare al mondo. Si devi mettere nei panni del povero padre che ha perso una figlia. Si devi mettere in un modo. Questo, infatti, io non questiono col padre. Il padre, cioè, poverino, nel dolore può dire qualunque cosa. Il padre è la civiltà di tutto il resto che ci sta attorno, che invece sragiona. Guarda Centinaioli, un politico. Un politico è gravissimo. Un politico che perché un conto è Mauro da Mantova, un coglione da Pistoia, il cretino da Pavia, l'imbecille da Varese, l'idiota da Piacenza, l'intellettuale da Bologna, il Cruciani da Milano. Un conto è questa roba qua. Un conto è un politico, vecchio mio. Cioè, la roba dice: fai risentire Centinaio. Scusami, fai risentire Centinaio. C'è un deputato. Perché te la stai prendendo con Centinaio? Basta, deve finire questa roba. Fai sentire Centinaio. L'ascoltatore, perché quello è un politico che incita ad andare a casa a prendere una persona. Fallo sentire. Aspetta, Andrea, prima Andrea, prenditela con Andrea, che dice della pena di morte. Andrea, con questa voce così, come dire, quasi soft, quasi innocente, non è il padre, ma sai perché lo può dire? Sai perché lo può dire? Perché? E sai perché? Mi viene fa una voce di mano davanti. Sai perché? Sai perché lo può dire? Perché? Lo può dire perché un signore, c'è un deputato cosiddetto Centinaio, ne basterebbe uno anziché Centinaio, già uno è abbastanza, non Centinaio. La colpa è di Centinaio. Quello ammazza uno con l'ombrellata, la colpa è di Centinaio. Perché no? La colpa di questo vomitume che sta di questa fogna che salta fuori, pena di morte, è la colpa di Centinaio e di quelli come Centinaio, che incitano dai, ad andare su a prendere a casa la signora che ha commesso quel reato. Risentiamo Centinaio. Io metto nei panni di qualsiasi genitore o di qualsiasi parente che vede ucciso un proprio caro, e dopo 9 anni su 16 questa la vedi in giro fare le foto su Facebook, farsi bella in vacanza, che cosa? Ma io ti vengo a cercare. Posso dire una cosa? Ecco, Centinaio dice sostanzialmente che se fosse, penso che immagina questo, se fosse il padre o la madre o un parente. Non fare l'esegeta di Centinaio. No, ma ti dico, adesso, secondo me ha detto così. Se fosse ma il padre o la madre. Ma è chiaro quello che ha detto. Io andrei a cercarla. Andrei a cercarla a casa, ma che cosa vuol dire? Ma è lo stato di diritto, detto da un deputato, da un rappresentante. Per forza poi arriva tutta sta gente che invoca la pena di morte, la lapidazione. Perché se un rappresentante. Sì, perché se un politico, c'è uno che ha una responsabilità di governo potenziale, per fortuna ora no, viene a arrivare a dire questo, ce lo va a cercare a casa. Ma e poi ti stupisci della gente che chiama, di Franco da Varese, Bobù da Bologna. Che c'entra? Dai. Corrado Pavia, dai, Corrado. Corrado. Dimmi Corrado, dimmi. Allora, siamo due ragazzi molto giovani, abbiamo 20 anni, però ti ascoltiamo da tanto tempo. Beh, amico mio, questo mi piace molto, questa cosa. 20 anni, siamo 20 anni. Giovani, che cosa fai nella vita a 20 anni? Cosa fai? Un cazzo, sicuramente, allora, disoccupato, che fai? No, studio all'università e lavoro in un'azienda di assicurazioni, però ti ascolto davvero da tanto, perché secondo me è una delle cose più culturali della radio. Culturali della radio, non dire cazzate, mi offendi, mi stai offendendo. Trasmissione più culturale, mi stai offendendo. Vabbè, Corrado, no, allora, non ho capito, allora 20 anni, studi che cosa? Faccio scienze bancarie, finanziarie e assicurative. Scienze bancarie. Scienze bancarie. E lavori già lavori oppure ti mantengono i tuoi? No, è una. Sì, mantengono i miei, però è una sorta di stage, qualcosa di questo genere, lo faccio già. Quindi, vabbè, fai un cazzo, dai, stai studiando. Bravo, giustamente, a 20 anni non fai un cazzo. Vabbè, comunque, questo è giusto. Non devi ascoltare la Zanzara, ascolta programmi culturali, Radio 3. Perché ascolti la Zanzara? No, a 20 anni? Vai a fare in culo, Cruciani, tu. Mi piace tanto Cruciani, non l'altro, però. A noi piace Cruciani. Tu quanti anni hai? Chi è l'altro fenomeno qui? Sono amico di Corrado, Alessandro, anch'io 20 anni, io ho una mia azienda. Sì. Lavoro io e volevamo, insomma, azienda tua, no, è l'azienda di tuo padre. Assieme a mio padre, ovviamente. Beh, no, assieme a tuo padre. No, assieme, vecchio tuo mio. Padre ha un'azienda. Ragazzi, che il tempo è denaro. La cosa importante è un'altra. Qual è la cosa importante? Ti abbiamo chiamato per un motivo. Tu sei il nostro idolo e volevamo intervenire su una cosa detta ieri. Sì. Si parlava del Maxim. Io e il mio amico Corrado siamo fidanzati. Andiamo al Maxim. Sì, e vabbè, ma che è sta storia, dai, su. No, non ho capito. Ah, siete fidanzati, non tra di voi, ma siete fidanzati, però state andando al Maxim. Abbiamo appena passato la dogana qui e ci stiamo dirigendo verso Chiazza. Cioè, la realtà è questa, alle 19:29 possiamo dare questo annuncio, David? Diamo questo annuncio. Allora, sì, due ragazzi di 20 anni. Mi dispiace per le fidanzate. Uno universitario, l'altro sporcaccioni, sostanzialmente lavora nell'azienda del padre. Uno si chiama Corrado e non so come, ma saranno nomi falsi. Oppure le fidanzate non ascoltano la Zanzara, cosa probabile. Giusto, Corrado? Chi è là? Corrado? Non ascolto. ascoltano, vero? Speriamo non ascoltino. No, speriamo non ascoltino. Stanno andando, secondo me non è vero che sono fidanzati, altrimenti non lo dico. Stanno andando tranquillamente a prostitute al Maxim. Con i soldi dei genitori? No, con i soldi dei genitori, sì, forse sì. Beh, sì, Corrado, direi. Quanto pensate di spendere? Come? Quanto pensate di spendere? Ah, non sappiamo, adesso vediamo un po' come gira la serata. Noi pensavamo prima di fare una cena, qualcosa di tranquillo, e poi decidiamo al momento, insomma. Decide al momento, ma sì. Ce l'avete pronta la 200 euro, 300 euro, una cosa del genere? Sì, stai tranquillo, stai tranquillo. Nessun problema, paga l'amico tuo, mi sa che stasera paga l'amico tuo. Non lo so, io il portafoglio forse l'ho dimenticato. Ecco, ma Parenzo non te lo chiede, ma perché andate al... avete le fidanzate, eccetera, che bisogno c'è di andare al Maxim? Ma hai stimolato tu la nostra curiosità. Non mi dire che da ieri sera hai deciso di andare al Maxim stasera. Programma diseducativo. Allora, però, mandami al numero. Adesso è colpa mia che è andata al Maxim. È diseducativo. Mandatemi al numero dei WhatsApp una foto che mi dimostra che siete in Svizzera. Altrimenti vi sputtano fra 3 secondi. Una foto 393-71-71-701. 393-71-71-701. Una foto che mi dimostra che siete in Svizzera. Voi non la diffondo, dovete dimostrare che siete in Svizzera. Ci sono stato a Capodanno, il migliore è il Moulin Rouge. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Nuovo format radiofonico. Parenzo e Donato da Varese, divisi solo da una grata. 10, 100, 1000 Donato da Varese. Allora, caro David, si sono radunati qui sotto via Monterosa, questa volta non pericolosi nazi vegani in cerca del sottoscritto, e poi sapete che io non ne posso più di parlare di questo argomento. No, basta. Me ne sono anche distaccato negli ultimi giorni, a meno che naturalmente poi non vengano alla luce altre cose. Anzi, più tardi vi parlo di una cosa che riguarda l'associazione Animalisti 100%, perché è veramente curiosa la cosa che scrivono e le cose che dicono, ma più tardi, quasi a margine, sì, quasi a margine di questa trasmissione. Durante la pubblicità. Ti dico che si sono radunate delle associazioni circensi. Dell'associazione circensi, addirittura c'è un elefante enorme, ovviamente finto, messo su un... No, ma enorme, c'è una specie di non manda so se di cartapesta. Manda giù Mercù a intervistare l'elefante. È già inviato sotto in mezzo agli amici del circo che sono venuti in nostro appoggio. Io ringrazio, ovviamente, credo che siano un rappresentante del circo Orfei, se molto non sbaglio. Molto bene. Che ringraziamo, viva il circo, assolutamente, soprattutto il circo con gli animali, oltre che tutti gli altri circhi. C'è anche Buonanno forse lì allora che fa giocoliere, no? Non c'è Buonanno. Puoi chiedere adesso ai diretti interessati se vogliono assumere il signor Buonanno. No, beh, non vogliono andare in fallimento perché un numero usurato ormai, Buonanno, dovrebbe rinnovarsi. Ma qual è il numero usurato, capito? Beh, mostra delle spigole nei parlamenti, si tira giù i pantaloni, ci fa delle cose che... Però il politico un circo potrebbe essere un format nuovo in realtà, no? Comunque la realtà è questa. Basta che non si rubi anche la cassa. Il principale... No, adesso ruba la cassa. Non lo so, no, ho dai, detto basta su. Che non si rubi anche la cassa. Comunque lo striscione principale in giallo rosso, questo un po' mi hanno fatto un torto i signori del circo, perché comunque il giallo rosso è giustificato dal colore del circo stesso. Giù le mani da Cruciani e Parenzo. Io li ringrazio fortemente. Dovrebbero grazie essere amici Orfei, la nostra guardia famiglia, del corpo. Ripeto, il limite secondo me è solo la legalità. Poi il fatto che ci siano delle persone che vadano a rompere i coglioni anche a quelli che lavorano e spesso sono persone che non hanno un cazzo da fare dalla mattina alla sera, che vanno a rompere i coglioni a quelli che lavorano nei circhi, impedendo alla gente di entrare, disturbando il lavoro, eccetera, sono dei poveri idioti, ma questo si sa. Giù le mani da Cruciani. Ragazzi, Andro, come si è messo? La chi c'è? Io non posso vedere niente, sono arrivati tardi. Eccoci, questi. Allora, innanzitutto, Giuseppe, beh, hai detto giustamente, giù le mani da Parenzo e Cruciani. Poi c'è un altro striscione, Parenzo e Cruciani, direttori onorari del Circo Orfei. Bene, ottimo. Non farti condizionare, potresti diventare un nazi animalista. Poi ancora, Cruciani e Parenzo, la nostra risposta intelligente al pensiero deficiente, quali sentite i circensi? E poi ancora, associazioni animaliste, prima di giudicare e protestare tutti i milioni di euro che ricevete ogni anno dallo Stato, perché non dite come li spendete? Vabbè, adesso questo chi se ne frega. Andro, fra un po' di tempo vai un attimo lì a pizzicare qualche esponente, così almeno lo facciamo parlare un po' dopo le 8. Grazie, Massimo da Bologna, vai Massimo. Dimmi. Sì, buonasera. Dimmi. Io voglio, ho provato a chiamare anche ieri sera, soltanto che non ho fatto tempo. No, volevo dire la mia opinione riguardo sempre alla storia là di quella che è della Romena che è andato semi libertà così. E io volevo dire che non soltanto è uno scandalo che gli hanno dato la semi libertà. Io vado oltre. Io ritengo che sia uno scandalo che questi soggetti qui che vengono in Italia, delinquono, vengono messi nelle carceri italiane, quando invece l'unica cosa che bisognerebbe fare è metterli in uno scatolone, pigliarli a carcere e spedirli nelle galere dei loro paesi. No, ma aspetta, un momento, Massimo, che cosa dovrebbe avvenire secondo te? Non ho capito bene. Che quando uno commette, se quella là commette il delitto in Italia, benissimo, la si impacchetta, la si spedisce in Romania e si fa l'ergastolo in un carcere romeno. Ma questo è un altro discorso, commette un delitto in Italia. Però ci siamo rotti i coglioni sempre dei soliti discorsi, perché sovraffollamento delle carceri di qua, so che è una cosa che va oltre magari i fatti in sé, però io dico che quelli che commettono reati devono essere immediatamente espulsi e mandati nei carceri dei loro paesi, anche perché io ne conosco dei romeni, me lo raccontano cosa fanno in Romania, che ci mandano sopra su sta cosa, che ci mandano i loro delinquenti, perché tanto sanno che qua in Italia possono fare il cazzo che gli pare e loro intanto se ne lavano le mani. Me lo raccontano, io ho avuto dei colleghi romeni, me lo raccontano. Dicono che ci sono delle pene più dure nei confronti di anche solo di chi ruba, eccetera. Altri negano che ci siano queste pene così dure. Vabbè, adesso è un dibattito che non ci interessa. Tu vorresti mandare di nuovo. Posso garantirlo. Vi prendo per il culo la giustizia italiana per questa cosa, perché le conosco. Posso garantirlo. Guarda, che però, Massimo, c'è una controindicazione in quello che dici. Tu dici uno straniero che commette un delitto in Italia dovrebbe essere cacciato e rispedito lì a scontare la pena. Attenzione, perché in realtà, in alcuni casi, noi siamo molto più duri rispetto ad alcuni paesi. Magari non è il caso della Romania, però se noi condanniamo qualcuno qua, magari va in altri paesi e viene liberato tranquillamente. Va bene, Andrea Piacenza, vai. Andrea non c'è più. Francesco Perugia, vai. Buonasera. Vai Francesco, vai. No, vai un cazzo. Che è successo, amico mio? Hai risposto bene, prontamente. Dico bene. Quello che penso perché appoggio Parenzo e non mi chiamano mai. Allora sono costretto a dire viva, no, contro i romeni. È la tua dietrologia ridicola. Noi richiamiamo quasi tutti. Dunque, non rompi i coglioni e comincia a parlare, dai. Voglio dire una cosa, allibito del tuo leccare il culo a Riccardo da Roma e Donato da Varese. Ma non lecco il culo a nessuno. Cosa cazzo dicono interessante? Ma adesso non è importante discutere. Lascialo parlare. Riccardo da Roma, il club sulla fanpage. Ma quelli sono affari loro. Ma magliettine, cazzate. Ma che mi interessa adesso parlare di quello? Riccardo da Roma. Oh! Vabbè, Francesco, devi continuare. Però, continuare? Io amo la zanzara e va bene così. Ottimo. Allora, che cosa vuoi dire oltre a parlare di nostri ascoltatori che ogni tanto intervengono? Volevi parlare di qualcos'altro oppure solo questo? Bene, ciao. Francesco Varese, vai. Francesco. Sì, ciao. Dimmi. Intanto, complimenti, ti appoggio su tutte le tue battaglie. Ti capisco che Parenzo deve fare il bastianco. Un avvertimento agli amici del circo: cercherò di scendere, i minuti sono pochi. Bravo. Cercherò di scendere per abbracciarvi tu anche a nome di Parenzo. Bravo, certo. E spero di farlo nell'intervallo delle 20. Dunque, amici, via Monterosa 91, che siete qua sotto, arrivo, vi abbraccio fortissimo. Più di questo non posso fare, amici miei, perché se venivate alle 6:30, alle 7 ero lì. Sarei stato un quarto d'ora. Circo Orfei, hai detto? Sì, credo, vari circhi, eccetera. Viva il circo. Cioè, io non vado moltissimo al circo, ci ho portato una volta mia figlia, ci vado moltissimo, ma difendo il diritto del circo a esistere, chiaro? Dove andiamo? Dove siamo? Francesco Varese, vai. Sì, stavo dicendo, intanto complimenti per la trasmissione, ti appoggio su tutte le tue battaglie, capisco che è parente. Ma non c'è nessuno, noi facciamo le battaglie, ogni tanto facciamo qualche battaglia. Ma ok, io comunque sia le tue di battaglie. Vai, dimmi. Io chiamo perché sono un lavoratore incazzato per la chiamata che è arrivata subito in diretta. Io per guadagnare 1.300 euro al mese faccio 240 ore di lavoro. Di notte faccio turni, siamo praticamente tra virgolette i sostituti delle guardie giurate, facciamo delle mansioni che dovrebbero fare le guardie giurate armate e tutto quanto. Quando io sento che c'è della gente che comunque dal paese loro viene qua in Italia gli si danno case, gli si fa la lista del menù, profughi, di quello che devono mangiare. Con case non sono case, sono soluzioni temporanee, abitative. Sì, soluzioni temporanee che stanno dentro 20 e 30 anni, le conosciamo bene. Sono profughi, soluzioni temporanee. Le soluzioni temporanee sono per gli italiani che temporaneamente sono stati messi nei container e stanno lì dal 68. Cioè, non è che questo. Il problema è questo. Quando io sento che un immigrato che viene qua in Italia, gli si fa la richiesta del menù, e il menù a volte non gli va bene, si incazza e va contro appunto chi gli propone da mangiare, a me fa semplicemente rabbia che l'italiano permetta tutto ciò. Noi non siamo più un popolo di... che dovrebbe fare, scusa, che dovrebbe, lascia perdere le citazioni assurde, vecchie, passate, superate, dai. Semplicemente dire, allora vieni qua, allora ti diamo ospitalità, boh, c'è questo, te mangi. Ma il problema questo, in questo caso, Francesco, il problema è molto semplice, questi signori qua, ed è un caso abbastanza clamoroso, sono andati a protestare dal viceprefetto perché il riso non era troppo acquoso, perché c'erano cervi o non so quali animali all'interno della tenuta dove erano, ma ci sono perché la tenuta di San Rossore, e loro non volevano animali intorno evidentemente, e poi perché erano troppo distanti dai centri urbani. Ora uno può anche incazzarsi, per carità, uno nella vita può fare quello che vuole, ma andare addirittura in delegazione, tu che sei arrivato qui, per carità, sei sicuramente in condizioni disperate, noi ti accogliamo, ti diamo da mangiare, ti accompagniamo al supermercato a fare la spesa, per eccetera, eccetera, eccetera, che poi vai a protestare perché il riso è acquoso. Quello no, amico mio, quello mi incazzo. Risentiamo Mikhailovic sulle donne, perché abbiamo un ospite, eh. La Satta ha visto cosa ha scritto? Che nello spogliatoio c'era tensione. Io penso che comunque, non sono razziste, però donne non dovrebbero parlare di calcio, perché comunque non sono adatte a parlare. Allora, l'interpretazione bonista di tutto questo, l'ho già detta qual è l'interpretazione bonista, si riferisce alle donne dei calciatori, però adesso risentendola in realtà non è così. Non credo che si riferisse alle donne dei calciatori che non possono rivelare non dei segreti così dello spogliatoio, perché lo ripeto per l'ennesima volta, la premessa di questa battuta di Mikhailovic, di questa frase, in realtà non è una battuta di Mikhailovic, che cos'è? La premessa è che la Satta ha scritto, detto, non mi ricordo, che c'erano casini, sì, ha scritto che c'erano casini nello spogliatoio, che c'era la tensione nello spogliatoio del Milan. Paola Ferrari, Paola! Ciao! Come andiamo? Molto bene, sono davanti a un meraviglioso tramonto romano, quindi benissimo. Romano, ma non hai detto che eri alzano del mobile, ti sei trasferita? Ero ieri, ma io mi muovo molto, sono una donna attiva e quindi oggi sono stata 2 giorni al Salone del Mobile e oggi bene, sono già tornata a Roma. Senti, ma allora, quanto ti fa incazzare questa cosa? Molto, tu che sei una donna del calcio, diciamo, no? Che parli di calcio, conduci trasmissione da una vita. Certo. Attenzione, attenzione, non sono una donna del calcio, io sono Sei la donna? Io sono la donna che per prima ha cominciato, insieme a Rosanna Marani, che è un po' più grande di me, a parlare di calcio, a cercare di entrare negli spogliatoi per portare a casa delle interviste, ad inserirsi in un mondo assolutamente maschilista e misogino. E allora ti fa incazzare come una bestia questa e roba? Certo che mi fa arrabbiare moltissimo, mi indigna, mi infastidisce, mi offende, ma però devo dire... Però purtroppo quello che molti uomini che lavorano in questo ambiente pensano. Cioè, tu stai dicendo che in realtà Mikhailovic ha detto una cazzata, cioè ha detto una sciocchezza. Ha detto una grande stupidaggine, una frase offensiva. Certo. Sì, però è quello che pensano molti giornalisti, molte c'entra? Persone del mondo. Molti uomini, non parlo di pubblico, parlo di uomini che lavorano in questo ambiente. Cioè, addetti ai lavori, però non parliamo in maniera generica. Molti uomini lavori, chi? Molti uomini chi? Ai lavori, probabilmente anche forse allenatori, perché non è il primo caso, abbiamo visto anche Mancini come si è comportato alcuni mesi fa con Sarri, Michela Calcagno. Con Michela Calcagno, tu dici, quando c'hanno davanti le donne sono insofferenti perché sono donne. Quando hanno davanti alcuni, non tutti, per l'amor del cielo, ma molti si sentono un po' infastiditi che sia una donna a porgli delle domande, perché in fondo la donna che cosa capisce nella loro... Ecco, ma possiamo dare un attenuante all'allenatore? Possiamo dare un attenuante all'ex allenatore del Milan? Forse forse la signora Satta, che conosco, che è comunque la compagna di un giocatore che non aveva tanto spazio, magari ha rivelato qualcosa che non doveva fare dello spogliatoio del Milan, le tensioni, poi non è che ha detto granché in realtà, ha detto una frase così. Ma se mi permetti, io gli ascolto proprio adesso le parole, e no, non gliela posso dare l'attenuante perché erano riferito a tu, perché erano riferite a tutte le donne, poteva esprimersi in modo diverso e dire non concordo con la moglie di un calciatore, le cose private dello spogliatoio non è adatta a riferire, non è adatta, ma non, e anche questo poi uno può giudicarlo o no, ma dire che tutte le donne non sono adatte, tu mi devi spiegare questo adatto che cosa vuol dire. No, no, effettivamente, guarda, mazzesca, a me Michalovic è molto simpatico, probabilmente l'anno prossimo allenerà la mia squadra, probabilmente, non lo so, il mondo speriamo. Del calcio è sessista, cara Paola, questo bisogna dirlo, secondo me. Assolutamente sì. Ah, è sessista, ma che vuol dire sessista? Facci qualche esempio. Vuol dire che le donne vanno avanti fino a quando non arrivano a posti di grandissima responsabilità. E poi? E poi vengono fatte fuori. Alcune ci riescono, ma è molto difficile. Noi, per esempio, a Rai Sport non abbiamo mai avuto un direttore donna, non abbiamo mai avuto un vice direttore donna, tranne Ivana Vaccari, che però, non dimentichiamo, si occupa degli altri sport. Ma anche con te nella vicenda. Io spero diventi Donatella Scarnati, per dire, però c'è ancora. Ma anche con te ma c'è stato. Ma al di là di questo, si può avere un commissario tecnico, un allenatore donna? No, ma quello è un altro discorso, però. Quello c'entra. La morale per le donne. Vabbè, Parenzo, adesso tu non sai di calcio. Per il mondo del calcio c'entra. Allora anche una donna allenatore di una squadra di club, perché no? No, però scusami Paola, anche nel tuo caso, per esempio, nella vicenda della domenica sportiva c'è stato sessismo o no? Ma allora, non vorrei dire sessismo più altre cose altrettanto sgradevoli che non voglio più ricordare. No, però per esempio io mi trovai in grande difficoltà con uno che considero un grandissimo giornalista e un ottimo direttore, che ho avuto anni fa, con il quale conducevo la domenica sportiva, che non aveva questo gran sentiva questa competitività, ma in modo particolare quello che sottolineano le parole di Michael. Sono un sentirsi superiore e considerare ancora la donna in un ruolo inferiore, non adatta addirittura a fare. Ma andrebbe sanzionato, secondo te? Andrebbe... Una brutta parola, non adatta. Sì, no, ma ho capito. Andrebbe sanzionato, secondo te, in qualche modo? Cioè... Mi piacerebbe che si scusasse. Una multa, una bella multa con i soldi, magari. Mi piacerebbe magari, che Tavecchio gli potesse dare una bella multa, mi piacerebbe che si scusasse. E se, però, e se lo devi intervistare, che fai? In questo momento adesso... Lui è stato abbastanza antipatico con me, Marco Mazzocchi, due mesi fa, e Marco, un suo caratterino pepato, l'ha sistemato subito. Se devo intervistare, lo intervisto, ci mancherebbe altro. Però umanamente, no, però nel senso che in faccia, cioè, nel senso, ti ripeto, cioè la prossima volta, metti che l'anno prossimo ce l'avrai di fronte, come magari prende un'altra squadra, no? Cioè, ti viene lì, la prima cosa che gli dici qual è? Se lui ancora non si è scusato, se lui ancora non ha detto niente, che gli dici? Che è stato molto cafone. Un cafone. Però un cafone. Ti ripeto che va al di là di questo. Lui ha detto una cosa che sentiva dentro, come un rospo. E purtroppo non è l'unico, nel senso che ancora ci sono tanti passi in avanti da fare. Vabbè. Nel mondo dello Senti, sport. Ma ti posso chiedere una cosa? Vabbè, io ho detto non già. Non da parte del pubblico. No, Paola, guarda, io ho già detto che ha detto una stronzata. A me piace il carattere di Michalovic, le reazioni che ha, il carattere forte. Però se uno dice che una donna non è adatta a parlare di calcio, è arrivata qui una donna improvvisamente a trovarmi. Cioè, ho già detto, ma mica perché ti voglio dare ragione, perché l'ho detto prima che venissi qua, ho detto che uno può essere transessuale, donna, gay, quello che è, eccetera. Quando parla di una cosa, io sto a sentire quello che dice. Non mi interessa se è donna, uomo, quello che è, che me ne frega. Dunque, Michalovic, purtroppo. Ma tu vedi che c'è in queste parole una posizione, un preconcetto importante che è difficile da sradicare. Sì, perché una donna, secondo lui, non è a poca adatta, che ne so, che ne so, non è adatta. Cioè, siete... anche Cruciani è sessista, Ferrari. Ma no, fidati. Non le mie parole, ma che c'è? No, anche tu sei mica... sessista. Ma io, ma quando mai? Molto ma... sessista. Allora, molto. Fermi tutti che c'è la pubblicità. Ma tu che lo capisci il padre, so che ti sei molto interessato anche a queste cose, il padre della ragazza uccisa dalla romena, là, Doina Matei, è uscito fuori il caso, lo capisci quando parla di pena di morte o no? Lo puoi capire o no? Lo puoi approvare o no? Questo è un argomento difficile. Lo so, quello sicuro. Il dolore di un genitore fa dire anche delle cose complesse, però che questa persona possa essere uscita al di là del post fotografico dopo una manciata di anni è una vergogna italiana, secondo me. Fermi tutti, poi torniamo con Paolo Ferrari un minuto, aspetta. La Zanzara sono le nostre 2 ore e mezzo di libertà quotidiane. La Zanzara. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. Che c'è? Che è successo? Fermo. Devo riprendere fiato. Aspetta, devo riprendere fiato. Che è successo, Davide? Che è successo? Devo riprendere fiato. Sono andato giù. Dagli amici del circo. Senti, senti chi c'è qua in studio in chi diretta. C'è? Chi c'è? Senti chi un c'è? Attimo. Ti facevo più giovane, Giuseppe. Perché? Chi è? Natania. Tu hai detto più Natania meno Parenzo? E eccola qua la prova. Hai capito? Allora vai Natania, chiama gli ascoltatori, quelli che ce l'hanno con me. Forza, vedi qua chi c'è, guarda questo chi qui è? Che ce l'ha chi con è? Me Andrea da Piacenza, chiamalo, chiamalo tu che Andrea, c'è Andrea da Piacenza. Chiama sto miserabile Andrea, di pronto Andrea da Piacenza, vai, forza, la radio, parla! Voglio Marco da Pescara adesso. Sì, vuoi Marco? No, perché? Perché Marco da Pescara ti butta su un altro argomento. No. Aspetta che devo chiedere una cosa a Paola Ferrari e poi Ferrari, torniamo, aspetta, bene. Paola, ciao. Ci saluti signor De Benedetti, signora Ferrari, Se devo. È Parenzo che vuole sempre salutare i potenti. Domani i potenti degli italiani. No, che potenti. Senti Paola, ma io ti devo chiedere, scusami, ho il fiatone perché sono sceso giù, perché ci sono i circhi, associazione dei circhi, persone meravigliose che mi appoggiano e volevano manifestare tutta la solidarietà quando mi hanno assaltato, no, per i famosi nazi vegani. Tu vai sei andata al circo così quando eri piccola sicuramente, ma ti piace il circo? Cioè non hanno gli animali, in realtà no. No, non ti piace, ma lo puoi non dire tranquillamente. Non mi piace tanto perché mi tristiscono molto, i clown, sempre mi piacevano un po' quelli che facevano le cose acrobatiche. Cioè non ti piacciono gli animali al circo, no, insomma? No, gli animali al circo non li posso proprio sopportare. Non li puoi sopportare, li chiuderesti i circhi addirittura, li chiuderesti. Non vorrei togliere il lavoro a gente che vive, però gli animali assolutamente in gabbia. Non ti piacciono. E i deputati al circo? I deputati tipo l'onorevole Buonanno della Lega al circo? A far cosa? No, beh, a fare con il suo mestiere, cioè il pagliaccio, anziché fare il deputato europeo, portarlo al circo. Non mi permetterei mai. Senti Paola, ma una cosa, è vero, per carità, no, non ci dormo la notte, devo dire la verità, lo so. Però tu potresti saperlo, ma è vero che la tua amica Santanchè si è lasciata con Sallustio? Signor Sallustio, una domanda molto... Anche io mi sento molto poco con la Santanchè ultimamente. Ah, si è lasciata con me, questo di sicuro. Per questa è una mezza notizia, devo dire, si è lasciata con te, cioè, avete litigato? Abbiamo qualche problema abbastanza importante. Che è successo? Roba di affari. Aspetta che avvisiamo Napoletano di cambiare la pagina, Roba di affari. Direttore Napoletano, cambi la pagina, perché qui c'è uno... Prego. Va bene. Ma è qualcosa da trapelato. Però. Sì, è vero, adesso non me lo ricordo. Ma secondo te è plausibile che si siano lasciati due? Siccome sono personaggi pubblici, in ogni caso uno comunque... Potrebbe essere, mi dispiacerebbe molto... Perché sono sicura che comunque è stato o è un grande amore. Ah, sì, sono convintissima da parte di entrambi. Quindi potrebbe essere. Avevo avuto qualche sentore, avevo avuto qualche premonizione. Come mai? Cioè, chi è la parte un po' ribelle in questo rapporto? Ma non c'è mai una parte ribelle. Sicuramente sono persone che sono esposte a molte condizioni. Certo. Secondo me, una Dio potrebbe male. Essere nata quando c'è stata. Il discorso di lui candidato tu dici... a Milano, forse lì può essere, però ti ripeto, non lo so perché non ci sentiamo da un po', quindi prima divorziato da me e poi Poi può avere divorziato da Sallusti. Potrebbe. Grazie Paola, ciao, salute. Abbracci, grazie ciao, voi, ciao, ciao, ciao, Paola Ferrari, grande presentatrice Rai, ciao, abbasso Mikhailovic, viva la Ferrari. Ragazzi, io non riesco ad appoggiare Mikhailovic, aiutate che mi rompete le scatole, voi mi dicete no, Mikhailovic ha detto bene. No, a me non me ne frega niente se uno dice una cosa, non mi interessa se è donna, uomo, transessuale, laziale. Laziale, sì, romanista, bravo, romanista, juventino, eccetera, che se l'è tagliato, non se l'è tagliato, se ce l'ha, non ce l'ha, se di sesso strano, quarto sesso, quinto sesso. Io ascolto solo le parole. Natania, c'è ancora? Sì, sono qui. Natania, con chi vuoi parlare? Una sola telefonata ti faccio fare. Facciamola più difficile. Andrea da Piacenza. Vai, Andrea, dimmi. Andrea, parla con Andrea. Natania. Sì. Ciao, Natania. Volevo chiederti qual è la caratteristica positiva di Parenzo, che nessuno di noi ne riesce a vedere una. Questa è una bella domanda, una bellissima domanda. Scontata. No, perché sì, è scontata. Sì, è adesso scontata. La bacio in diretta. Vuoi sentirmi? No, adesso... la domanda è scontata, ma la risposta no. No, allora attacca. Beh, ma due persone che stanno insieme, che sono innamorate, che fanno i figli, che gli vai a domandare, Andrea, è scontata la domanda, no? Cioè, ma che, ha ragione Natania, adesso è una domanda scontata. L'ottimismo radicale, poi il resto. L'ottimismo? È un ottimista radicale, poi per i difetti servirebbero altre tre ore, non so se tu ce l'hai la trasmissione. Natania Zevi, in Parenzo, ancora non in Parenzo, Natania Zevi dice, quella potrebbe essere un elemento in discussione, cioè vi volete sposare o no voi due, per esempio? Questo è interessante. Non ne parliamo mai, però. Non ne parliamo mai. Tu ti vorresti sposare, Natania? Io non ne sento l'esigenza. Davide? A casa mia si sono sposati. Vai a casa, la discussione al telefono. Io voglio parlarne. Non cadere nelle trappole del diabolico che non si lava, che è lì a Milano. Perché, guarda, quello è il ma diavolo. Lui però è uno che si è sposato, attenzione. Sì, assolutamente. Sì, beh, questo sappiamo, lo sanno tutti. Ma quello è abbastanza notorio, insomma. Però non, ecco, nel caso dovessimo sposarci, vegana. Tu vuoi invece, Cosa? Ti vuoi sposare ancora? Sì. Ma no, c'è un ascoltatore, lo sanno da Grosseto. Non lo escludi. Marco da Pescara. E per esempio, faresti un altro figlio, Natania, tu? Tra un po'. Tra un po', però sì. Ma questo non lo sapevo. Però sì. Però... Ma mica ho detto con te, ma che vuol dire? Ah, guarda che quello richiama adesso. Quello dice, ecco, ha detto con... Oh, Natania, due punti. Quello richiama, chiama le rotative, Andrea, del sole. Perché ti sta sulle palle Parenzo? Dillo alla sua compagna, sua quella forse futura moglie, ma, eccetera. Perché ti sta sulle palle? Per esempio, ma... nella vicenda di questa romena, che lui appoggia, dice che è stato uno non scandalo. Non è che appoggio, io appoggio il fatto che le sia stata tolta la semilibertà. Perché è un istituto, è un diritto, bene, la semilibertà. Perché ti sta sulle palle quando dice così? Dimmelo, Andrea. No, ma non è che mi stia sulle palle, volevo solo capire se lui ritiene che sia un torto averle tolto la libertà, la semilibertà, perché certo, la legge lo prevede o perché se è stata fatta furor... dopo 9 anni. Aspetta, fammi finire la domanda, sennò come fai a rispondere? Dopo 9 anni, secondo te, eticamente è corretto che uno venga liberato? L'istituto della semilibertà prevede che se tu hai scontato metà della pena più un anno, puoi accedere, se hai avuto una buona condotta, all'istituto della semilibertà, che prevede che torni in carcere a dormire e vai a lavorare. Nello specifico, la signorina puliva i cessi, cosa che dovrebbero fare la maggior molle, parte molle. Natalia, degli ascoltatori della trasmissione. Secondo te questa qua, come dico io, deve restare in carcere 16 anni e poi eventualmente avere il beneficio tutto e uscire, oppure è giusto che sia uscita dopo 9 anni? Adesso non dire la stessa cosa che dice David, i diritti. Non è cose, uscita, cioè, non è uscita di galera. Non è uscita. Voglio sapere un parere di Natania. Beh, sono abbastanza d'accordo con te, Giuseppe. Sono un po' più radicale, però dirti la verità è... ha senso anche la tesi che tu sostieni. Ma come ha senso? Ma ragazzi, è stato di diritto qui. Litigate. No, ma su questo no. Con quell'animale. Non litighiamo su questo perché lui è polemico, non ci puoi manco litigare. Su che litigate? No, David è polemico da morire, lo sai, perché ci fate una trasmissione apposta, però a me non mi pagano. No, a te sì. Vabbè, ciao ragazzi, ciao Natania in realtà, Davide. Vado via anch'io. No, no, ma che vai via, no. Sì, datevi un bacio. Datevi un bacio, dai, ti amo, dai, Davide. Si dicono nell'intimità queste cose. Mamma mia, che sei, dille ti amo. Non spaccare il telefono tutto. Lì, dille ti amo. Ma bene, certo che ti amo, ovvio, abbiamo fatto due figli. Natania, ti amo e non potrei fare a meno di te. Non posso fare a meno di te, dillo, non posso fare a meno di te, bellissima. Sono tutte banalità, però non posso fare a meno di te. Vieni qua, io voglio sentire queste cose qua perché sono veramente belle queste cose. Le vorrei dire pure io, non riesco a dirle, cretino, ma non riesco tu a dirle, ma dovrei dirle ogni tanto, dovrei dirle. Invece è bellissimo sentirle dire. È bellissimo, non posso sbattendo la porta. Più Natania, meno Parenzo. Più Natania, meno Parenzo. La zanzara. è in corso ascoltatore della Zanzara, è in corso una manifestazione in sostegno di Giuseppe Cruciani, cioè il sottoscritto, e anche Parenzo, devo dire, una manifestazione da parte di associazioni circensi, in particolare il Circo Orfei, che si trova qui vicino nella città di Monza. Noi ci colleghiamo davanti alla strada, davanti alla sede di via Monterosa 91 in Milano, perché i signori del circo hanno esposto degli striscioni dicendo che siamo con voi, vi difendiamo noi, non abbiamo bisogno di grandi difese, però siamo molto contenti di questo. Allora, molto. Andro, passami qualcuno dei signori circensi lì davanti. Poco fa sono sceso e mi hanno quasi sollevato, Parenzo, dovevi vedere. Beh, mi hanno tirato in aria, aria, e devo dire ero sicuro, perché se mi facevano cadere quelli del circo ti hanno buttato nel cerchio di fuoco, era un problema. No, ma non c'è il cerchio di fuoco, però non volevo bloccare il traffico, poi mi accusavi hai bloccato il traffico, no? Effettivamente ero in mezzo alla strada e quasi abbiamo bloccato il traffico, però dopo un po' me ne sono andato, perché mi accusavi, ecco la manifestazione, no, col traffico bloccato. Andro, molto, chi molto c'è bene, là vicino? Allora, traffico siamo, bloccato. Siamo insieme a Alex Zorzan, domatore di leoni, di tigri, che ha avuto anche una colluttazione con gli animalisti, ma ci racconta tutto lui. Vai. Buonasera a tutti i telespettatori e grazie. Radio, qui siamo alla radio. Dimmi, amico mio, come fai a domare le tigri tu? Come fai? Saranno drogate le tigri, no? Assolutamente no. Le tigri e i leoni ricevono controlli trimestrali, esami del sangue. Se non li drogassimo, verremmo piantati sul fatto. Quindi... Bene, come si fa a domare una tigre e un leone? Come si fa a domare? Non hai paura? Non hai il terrore della tigre, o no? Beh, la paura è fondamentale, perché la paura è quella cosa che ti trattiene in certi momenti e non ti fa strafare. Però l'addestramento avviene completamente in dolcezza. Gli animali all'età di un anno iniziano per gioco a riprodurre tutti quelli che sono i movimenti che fanno anche in natura. I salti, i debut o le varie pirole a terra sono movimenti che del tutto riproducono anche nella savana o nella giungla. Ma quindi... ragazzi, adesso non sono nella savana e nella giungla, però in questo caso si trasformano, io l'altra volta l'ho detta anche grossa, si trasformano in veri e propri artisti. Cioè sono... l'animale che diventa artista. Non c'è sono gli artisti e sono il cuore del circo. Senti una animali... cosa, amico mio, quanto guadagna un domatore di leoni e di tigri? Guardi, guadagna come un operaio di fabbrica, né più né meno. Addirittura, il nostro lavoro addirittura. Lo facciamo più che altro per l'amore che abbiamo per i nostri animali, la passione. Il 90% della mia giornata è basata sulla cura a tutte quelle che sono le cure pulire per le i miei tigre, animali certo. La pulizia. Cioè tu dimmi la verità, tu sei uno del circo, no? Probabilmente gli animalisti ti odiano, ti vorrebbero morto. Mi hanno accoltellato. Come ti hanno accoltellato? No. Ti hanno accoltellato. A Mestre, all'incirca 6 mesi fa, ho avuto una colluttazione con un gruppo di animalisti che volevano entrare all'interno delle strutture per liberare gli animali. Io mi sono opposto, hanno cercato di accoltellarmi allo stomaco e con il braccio sono riuscito a parare il coltello e mi hanno dato 22 punti al braccio. Ma ci sono denunce, processi in corso. Noi siamo qua, chiediamo solamente rispetto nelle proteste chi c'è qua? Che subiamo, solo questo. Ma chi è qua io che sono parla? Il direttore del circo. Ciao, grande direttore. Buonasera direttore. Dimmi una cosa, quali sono? Lui è il Roberto Napoletano del come si chiama? Del circo, sì. Senti, amico mio, ma che problema avete avuto? Spiegami con qualche colluttazione con gli animalisti. Che è successo? Oppure qualche episodio? Che è successo? No, ripassami l'amico tuo là. Io sono il domatore, sì, sono io. No, l'altro, il presidente. Il direttore, ecco. Direttore, dammi il direttore. Guarda, ne subiamo di tutti i colori le proteste. Fammi un esempio. Qualche volta ti travesti da clown e assisti a una manifestazione nostra degli animalisti davanti al circo. E poi ne vedi di tutti i colori. È inutile che noi raccontiamo. Ma dimmene una. Dimmene una. Praticamente ho una figlia di 16 anni. Che lavora al circo? Gli animalisti avevano... Lavora circa trapezzista, una delle più brave. Praticamente gli animalisti sono venuti a protestare. Nel frattempo si sono camuffati, sono entrati nel circo a creare disordine e hanno toccato il fondo schiena a mia figlia. Ma l'hanno fatto, magari l'hanno fatto per caso, magari. Dai. Per caso, ma guarda che gli animalisti quando devono fare una protesta non possono entrare dentro una struttura. Si devono mantenere nelle regole e nei regolamenti. Ci danno delle prescrizioni. A parte che non devono entrare, perché non è proprietà loro. Sono entrati solamente per violentare, non per protestare, perché se te vuoi protestare... Cioè addirittura noi, tu dici... Ascolta, noi che protesta stiamo facendo qua davanti? Civile, bella, allegra, loro la vogliono fare ma perché la vogliono fare solamente quando creano il panico e arriva il pubblico? Senti amico mio, io ti abbraccio, grazie di questa manifestazione, grazie, ciao. Ti invito al circo quando vuoi. Vengo con mia figlia Monza, allora, fate parlare solo quelli favorevoli alla violenza agli animali, che vergogna, siete fascisti, mi scrive uno, io gli rispondo, noi facciamo parlare tutti, non dite cazzate, abbiamo ospitato animalisti, gente contro il circo, una, 5 minuti fa, la signora Ferrari ha detto che è contro il circo e vorrebbe, no, non dico chiudere, ma quasi chiudere i circhi, dunque non mi rompete le scatole, questa è una trasmissione in cui c'è il massimo della libertà, tutti possono dire loro, tutti, persino Parenzo, no, sto scherzando, persino ascoltatori, insomma, che no, che in altre situazioni sarebbero bannati, sarebbero cancellati, e dai. Libero salame in libero stato, libero salame in libero stato. E traffico. La Zanzara. Io non so quale trasmissione, credo Quinta Colonna, se non sbaglio, potrebbe essere un'altra, però ha intervistato, addirittura ritornando indietro nel tempo, nel 2007, uno dei testimoni della vicenda Vanessa Russo, dicendo delle cose molto chiare, però si tratta di cose ormai di 9 anni fa che sono tornate a galla, Parenzo, per un semplice motivo, perché un giudice ha deciso di cancellare la semilibertà, anzi prima per un altro motivo, perché sono apparse delle foto della signora Doina Matei, condannata a 16 anni di galera, su Facebook. Un giudice ha deciso di riportarla in carcere perché queste foto al mare, secondo lui, erano intollerabili o comunque andavano contro il regime di semilibertà. Si poteva anche chiedere al signor giudice perché non te ne sei accorto prima, diciamo, no? Prima del caso mediatico. Esatto, ma mi stupisce che non si parli del Romano che uccise con due pugni, mi pare. L'abbiamo detto ieri. Sì, bisogna ripeterlo anche oggi, visto che si parla del caso di Doina, no? Testimone nel caso Manessa. E che è uscito in semi libertà. In questa spinta reciproca, poi a un certo punto Doina, avendo un ombrello a punta in mano, si è scagliata contro Vanessa, infliggendole questo colpo nell'occhio, e io ho addirittura proprio sentito il tac, diciamo, del colpo. Io ricordo che lei ha fatto questo gesto qua, quindi usando in questo modo come una spada. Sì, tu ti difendi, ma la forza con la quale lei si è difesa mi è sembrata eccessiva. Il colpo è stato forte, lei è caduta subito per terra, ha avuto tipo convulsioni perché probabilmente già stava perdendo coscienza. Allora andiamo a Palermo. Giovanni, vai. Vai. Sì, allora io volevo intervenire per intanto concordare con Parenzo sull'atteggiamento del leader del Sì, un attimo solo, devo dire, restate con noi perché alle 20.30 parlerà qui alla Zanzara Cristina, la signora Cristina D'Avena. Cristina D'Avena, no. Ah, straordinario, cioè. Cristina, 20.30, 20 fantastico, e 30. Tutte le sue canzoni conosco. Kiss me, Licia. Giovanni, vai. Sì, allora io volevo manifestare il mio appoggio a Parenzo per la sua critica a Centinaio. Cioè non si può strumentalizzare una vicenda del genere per fini elettorali. Bravo. Cioè veramente, siamo veramente alla Repubblica delle Banane se questi salgono di nuovo al potere. Comunque sul caso invece della Doina Matei, cioè mi premeva dire una cosa. Cioè sta divisione tra Guelfi e Ghibellini, tra garantisti e giustizialisti mi sembra fuori luogo. Cioè, bisogna appunto andare nel merito. Cioè, verificare se il giudice ha fatto bene o meno a revocare questo regime. Cioè, se nel provvedimento di concessione della semilibertà c'era o meno il divieto di andare sui social. Perché quello è il punto. Vabbè, ragazzi, però adesso non entriamo nel dettaglio. Motiverà il giudice, motiverà le ragioni della semilibertà tolta alla signora Tutte le altre Matei. Cose, dai. Scusami, tutte le altre cose, insomma, i 16 anni, l'ergastolo, sono cose assurde, anche perché per un omicidio preintenzionale, sì, ma è una pena appropriata. Sì, ma sarà appropriata, quello che vuoi. Secondo me, se c'è un morto di mezzo, 16 anni, lasciamo perdere, si può discutere a lungo 16 anni, pochi, tanti, eccetera, ma li devi fare tutti in carcere, no, perché quando puoi andare via tutto il giorno si chiama semilibertà. La semilibertà dovrebbe essere che tu 2 ore le puoi passare a lavorare, punto, anche fuori, ma 2 ore Ma non tutto il giorno fuori. È praticamente là, il carcere diventa un albergo. Perché in questo. È praticamente così. Ma è incredibile. Così. Cioè, l'istituto della cosiddetta semilibertà lo chiami albergo. Vabbè. Ma guarda che è incredibile. In questo caso il carcere diventa l'albergo. Un albergo. Ma quale albergo? È la rieducazione della pena, Gruciani. Ma sì, ma siamo d'accordo. Ma il problema è che c'è un omicidio. 16 anni li devi fare, Rossano da Grosseto. E vabbè, ragazzi, io la penso così. Che devi fare, Rossano da Grosseto. Rossano, buonasera a tutti. Dimmi. Ma cosa avrebbe detto il padre della vittima, poverina, che era favorevole alla pena di morte? Sì. Ecco, ora io in questo caso non lo so, perché se c'è stata una collusione, la signora rumena si voleva difendere, e magari anche con foga, come si è sentito prima dalla. Forse in questo caso no, ma io volevo dire che in generale, per determinati reati, io sono strafavorevole alla pena di morte. Esempio, ma tu sei favorevole? Non si può sentire questa cosa, veramente, non si può sentire. Posso continuare a parlare? Sì, dimmi. Il pedofilo che abusa del bimbo e lo uccide, è preso sul fatto, secondo me, l'unica cosa da fare è... farlo fuori. Sì, è anche abbastanza la svelta, senza tanti processi. Il signor Cabobo, che poteva chiamarsi anche Rossi, per l'amor di Dio, o Verdi, e poteva essere andava italiano, preso e impiccato in piazza, dopo avere preso ad accettare. Impiccato in piazza perché ora al punto in cui siamo, è questo qui con un... Ma lo dice tranquillamente. Sì, questo è ghiacciante. Dove c'era scritto picconatore. Il picconatore, ma lo ricordo bene. Secondo te andava preso, siccome era una piazza anche alberata, se non mi ricordo male, quella là dove fu preso Cabobo, secondo te andava presa la corda... All'inizio bisogna dare l'esempio. Cioè, il pedofilo, c'era scritto pedofilo, che abusa del bambino e lo ha ucciso, e questo vi serve un po' di monito, probabilmente metà dei pedofili. Ma magari anche frustarlo silenzio, un po' prima, per no? Per favore, finisco così poi dopo ma la cosa agghiacciante è il tono con cui lo dice. No, Rossano, scusa. Cioè, è un tono Cabobo, quasi, secondo te no? Uno andava preso là, quando fu preso in piazza là, andava direttamente impiccato all'albero? Cabobo, che se si chiamava Rossi, sì, l'hai già detto, italiano, sì, guarda, io non ne faccio una questione, impiccato né in piazza, né impiccato in piazza di colore, impiccato, ma impiccato in piazza non allora al punto in cui le cose sono due, o impiccato giustizia... o non impiccato, amico mio, se sei d'accordo, uno è impiccato, questo voglio capire. Allora tu lo impiccheresti? Impiccato ha lasciato lì a mo di esempio, no, non ma anche tu che questo anche diceva di no, cioè, la pena di morte poi poteva essere eseguita con l'iniezione letale, non lo voglio fare in maniera cruenta o no, dire che il pedofilo... La lucidità è incredibile. No, ma non lo vuoi fare in maniera cruenta, no, per carità, però l'impiccagione anche lasciandolo lì per qualche giorno, che dici? Quello d'esempio, le cose forse sono state capite, dove c'è scritto questo è un pedofilo che ha fatto questo, e volevo tornare al discorso dei pedofili... Sì, torniamo al discorso dei pedofili, Visto che è considerata una malattia, secondo me, dopo la prima sentenza del genere, metà guariscono, metà chi proprio non ce la fa va a farci curare chimicamente. Chimicamente, ho capito. E il sistema, cioè, la situazione. Tu dici, prima facciamone Olindo e Rosa, che quel giorno chiunque passava in quel pianerottolo avrebbe fatto una brutta fine... Probabilmente, visto che volevano stare insieme anche dopo, bisognava fargli una fossa un pochino più grande, cioè? E sistemarli insieme. Giustiziati, cioè? E sepolti insieme, volevano stare insieme. Giustiziare e sepolti insieme. Vabbè, no, ma è per capire com'è la storia. Va bene, Rossano, dopo questa dissertazione direi molto chiara, no, Parenzo? Non mi sembra che ci siano. Drammaticamente chiara. E quello è il tono di voce mi preoccupa, perché sembra lucido. No, ma è lucido, Rossano, è lucido. Cioè, dice è quello che mi spaventa, cioè, è la banalità del male. Io direi di andare in provincia di Latina da Bruno. Sì. Caro Bruno, buonasera. Speriamo di migliorare. Eccomi, buonasera. Dimmi, caro. Cioè, attesa lunghissima. No, ma oggi è un po' una giornata particolare. Dimmi. Allora, intanto buonasera a tutti. Sono d'accordo con Mihajlovic, l'allenatore del Milan. Cioè, le donne non devono parlare di pallone? No, le donne possono parlare di pallone. Allora... Però è uno dei motivi per cui io, ad esempio, non ho tolto vari abbonamenti e lo seguo sempre di meno il calcio. Perché? Ah, tu dici perché ci sono troppe veline e mezze coglioni? No, l'ha detto lei. Non so, praticamente non parli. Mihajlovic è uno che che praticamente dice quello che pensa senza, vabbè, senza uno può anche dire quello che pensa, ma non è che necessariamente poi uno siccome uno dice quello che pensa non può essere una cazzata, No, ma infatti secondo me non lo è, non è stato offensivo. Io non vedo... Adesso questo si può discutere, per me un po', per le poche persone che si occupano di calcio a livello femminile, ovviamente uno si può sentire, anche se un addetto ai lavori importante come Michalovic, ex allenatore del Milan, dice che le donne di calcio non dovrebbero parlare, ho capito, ma uno... No, non ha detto questo. Come no? Ha detto ancora peggio. L'abbiamo sentito, adatte, ragazzi, cioè, basta. Non sono adatte, no, probabilmente, non sono adatte. Non sono adatte. Ho capito, ma perché non sono adatte? Hanno degli handicap, addirittura peggio. No, non sto dicendo. E perché? Michalovic termina la partita, è un uomo pieno di tensioni per reggere quelle tensioni. E allora? Arriva una impiegata giornalista. E che differenza c'è con un uomo, scusa? Che praticamente... E che cosa? Ti fanno girare i coglioni? No, che praticamente... Una roba incredibile, non sai che dire, non sai che dire. Ma perché non c'entra un cazzo chi dice le parole? Bisogna vedere come, che cosa si dice. Non c'entra un cazzo se è donna, gay, ermafrodita. L'ho detto per la centesima volta. Basta cazzate. Lui non è stato offensivo, cioè ha voluto dire: io sono un uomo tecnico, un uomo di calcio. Per quale motivo, cioè, devo essere praticamente... Mi devi criticare? Perché lui pensa, forse lui pensa che le donne, essendo non potendo vivere lo spogliatoio, il pallone, eccetera, eccetera, non capiscono fino in fondo l'anima del calcio. Forse questo. Sto cercando di salvarlo, ma non ci riesco. Ciao. Beh, ragazzi, io quando ascolto la Zanzara mi sento libero. Mi sento una persona libera. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la Zanzara. Chi siano non lo so, gli strani ometti blu, sono alti su per giù, due mele poco più. Se purchi siamo così, se siamo tutti blu, puntiamo su per giù. Parenzo, questa l'ho messa per te, Davide. L'ho messa per te. Puffiamo un po'. Ma perché sei così attaccato a questa canzone? Perché è la mia infanzia. Per esempio, io come puoi immaginare? Kiss me, Licia. Ricordo tutto. Ma veramente le sai? A memoria, io da ragazzino. Lo sai che io invece dimentico tutto e non so niente. Cioè, come se avessi. Pane e puffi. Ho cancellato tutto. Cioè, ovviamente me le ricordo mi ricordo Stadio i titoli. Metti blu. Ma tu sai tutto, veramente? Votiamo Calderol. Perché sto cercando di capire se si può fare, sostituire ai puffi la Lega, anzi Gargamella. Sto cercando di... L'hanno fatto stupendo. Mille volte. Però sono melodie straordinarie. Allora, la creatrice, autrice, cantatrice di queste canzoni è una signora che è qui in collegamento, che in una trasmissione, in un'altra radio, di recente ha detto queste parole, però gliel'hanno un po' messe in bocca, secondo me, le parole sul sottoscritto. Sentiamo. Allora, magrissimo a me non piace. Anche la pancetta... A me alla fine piace, perché la pancetta ti dà un senso di, come ti posso dire, di calore, di coccola. Ma deve avere degli occhi penetranti, che poi siano verdi, che siano neri, che siano azzurri, gli occhi devono parlare. Quando uno dice che nella vita basta l'amore, è vero, però magari qualche soldino serve. Però insomma non è così fondamentale, dai. Tu lo sai che senza volere hai fatto esattamente l'identikit di Giuseppe Cruciani? Cioè, ti piace Giuseppe Cruciani? Sì, l'hai fatto proprio i denti, cioè, quindi lo scoop a Cristina D'Avena piace Giuseppe Cruciani, vediamo se a lui piace. Tu che ne pensi di Giuseppe? È un bell'uomo? Dai, abbastanza. Ma gli hanno messo in bocca, ragazzi, ma lo sapete come funzionano queste cose? Cristina! Eccomi! Te l'hanno messo in bocca, adesso per carità, adesso i doppi sensi si sprecano, te l'hanno messo in bocca, nel senso intendevo Giuseppe Cruciani, il nome di Giuseppe Cruciani. Per carità, non cominciamo subito, Non cominciamo. Non cominciare. No, per carità, ma mica voglio parlare di cose zozze, no, assolutamente. Ma ti hanno messo, tu manco ci pensavi, a parte che io non rientro assolutamente nell'identikit di prima, perché prima non ho la pancetta, primo. Cioè sono molto molto asciutto, sono ingrassato un chilo negli ultimi mesi, la cosa mi disturba, perché tu devi sapere, Cristina, che io sono da questo punto di vista una specie di matto furioso, sì, che vero, appena, vero, metto, vero. Appena metto sei etti, sette etti, divento pazzo, divento sì. pazzo. Capito? Anche io sono un po' così, devo dire. Tu, vi siete trovati, vi lascio solo. No, allora, la signora D'Avena, che ha qualche anno più di me, ma uno o due anni, credo. No, giovane signora D'Avena. No, più uno, due anni più di me, io faccio 50 adesso, lei credo che l'abbia già fatto. Ma quando cantavi i Puffi, signora D'Avena, quanti anni avevi? 20 anni? No, intanto non mi dica signora D'Avena, per favore. Signora Cristina, ma per me è un'istituzione, per me è come Napolitano. Esatto. No, come napoletano. Per me è come napoletano, che è come Presidente della Repubblica, è un'istituzione. Come napoletano, ma che come napoletano? Ma no, è un'istituzione da salvaguardare. Cioè, Napolitano ha fatto la è stato Presidente della Repubblica straordinario. Cioè, come Mattarella, no, come Mattarella no, per carità. No, sì, è il Quirinale, cioè, della canzone. Il Quirinale, come il Quirinale. È un'istituzione, è il Consiglio Superiore della Magistratura, è la Corte Costituzionale, cioè è una, ragazzi, è la gioventù. Sono i profumi, gli odori, i primi bacetti con le ragazzine sul divano mentre guardavi i Puffi. Ma può essere, ragazzi, occhi di gatto. Senti, ma solamente i Puffi, Cristina, solamente i Puffi, quanto te fanno guadagnare ancora? I Puffi? Ma i Puffi mi fanno fare tantissime serate. Ma no, diritti, Puffi, cose, quanti? Diritti, allora, considera che io diritti sei sulla canzone dei Puffi non ne ho, per cui sinceramente perché comunque non è stata scritta dalla sottoscritta, sì, e sì. Quindi non ho assolutamente diritti SIAE. Diciamo che la canto tantissimo in giro, faccio concerti, serate. Vabbè, ma insomma, le caratteristiche dell'uomo tuo, io non ho capito questa cosa qui, è stata equivocata, perché è poi l'uomo adesso, tigre. A me adesso di chiederti delle canzoni, di queste cose qui, me ne importa poco, perché hai parlato, allora, da Sanremo in poi hai parlato mille volte. Allora, ma il tuo, io non c'entro niente con questa cosa qui, perché sono uscite le cose, Cristina D'Avena, Cruciani, mio uomo ideale. Adesso, non diciamo cose, non diciamo allora, Confermiamo. Cruciani, diciamo una cosa, Cruciani è un uomo affascinante, e un uomo intrigante. Allora, io sono dell'idea che l'uomo affascinante abbia dei punti in più, no? Sia, almeno per quanto mi riguarda. Cosa ti piace di un uomo? Ti piace, per esempio, che ne so, con uno che non fa bene sesso, ci potresti stare tu? Beh, ma che c'è, signora D'Avena? Assolutamente non si può chiedere alla signora D'Avena. No, è ovviamente occhi di gatto, Olly e Benji. Ma ragazzi, cioè, si può voler bene a qualcuno che scopa male? Adesso te lo dico. No, perché subito tu, mamma mia! No, allora, ma ti dico subito perché. Allora, perché ci sono un sacco di mie amiche che stanno con persone. Adesso non diciamo la parola scopare, sennò è brutto. Pare brutto, pare brutto. Pare brutto. No, non sono, a parte che non sono parolacce, è linguaggio comune. Però non si, vabbè, ok. Però, davanti a te non le dico, d'accordo. Allora, la cosa fondamentale, allora, si può stare con una persona, molte mie amiche si pongono questo problema, stanno con delle persone, non fanno bene sesso, eppure ci stanno lo stesso. Io però, perché gli voglio bene. Io, ma ti posso che chiedi alla certo, assolutamente, glielo chiedo alla persona. Ragazzi, ma allora, è come tu non, allora, tu non potresti. Dico solo che, allora, personalmente ti dico che parliamo intanto di fare l'amore, perché non mi piace dire fare sesso. Vabbè, fare, sì, l'amore. Fare sesso, fare l'amore. Vabbè, insomma, comunque, io personalmente no. Personalmente non ci starei, perché mi piace stare molto bene, quindi sto tutto. Hai ragione. Tu, per esempio, hai una, come dire, non dico un'età, ma insomma sei una specie, uno che ti potrebbe definire una bella MILF, no? Una bella MILF. Anche, ma non posso accettare che si dica così a Cristina questo, D'Avena. Allora, parliamo di questa cosa qua. Parliamo, che personaggio associeresti dei cartoni animati a Renzi? Ecco, adesso non parliamo subito guarda, potrebbe essere il Puffo, uno dei Puffi, guarda, uno dei Puffi, magari. Quale? Anche quello saccente. No, ma anche il puffo quattro occhi, il puffo brontolone. Vabbè, scegliamone uno anche il puffo quattro occhi, che è buffissimo quando parla. Il puffo quattro. Lo dicevo io e lo sapevo io. Ma lo sai, veramente lo sai? Non ho, ragazzi, ti ho detto che so a memoria. Siete informati. No, lui che è informato. Piacciono tantissimo i Puffi. No, Parenzo, te l'avevo detto. E anche Gatto, perché l'avete cantata. Senti, lui l'ha cantata, io non sapevo niente. E Salvini, per esempio. Occhi di gatto, vedi. Ma veramente, Parenzo, potresti fare un duetto Liu con me? Liu Pen, l'inarrestabile. Questa l'ho cantata io, però. L'incorreggibile, chi la cantava quella? La cantava Enzo Draghi. Gravissimo. Senti, ma sei fidanzata? Io sono fidanzata. No, ma è sono fidanzata. Ma adesso mi dovevo fare le domande così su. Normale, sulla vita privata, è normale. La vita privata è normale. Molto leggera, ma sì, ma sai. Domanda, ma non ti ho mica, chiesto se sei fidanzata con Totorrina. No, ci mancherebbe. No, appunto, sono fidanzata. Certo, sei fidanzata, ma sei una fedele, per esempio? No, ma io potrei essere interessato a queste cose qua. Sei una fedele oppure monogama? Sono fedelissima. Sei fedelissima. Sei monogama. Sì, certo, sono fedelissima. Non è che viene a dire alla radio il contrario, però scusa. Non c'è niente da fare. Quando amo, amo. Quando ami, ami. Quando ami, ami. Bisogna amare, però. Bisogna amare. Bisogna amare. Senti, per esempio, una cosa interessante: tu ti sei sempre occupata di bambini, no? Cioè, insomma, le canzoni erano soprattutto per un pubblico di questo tipo, no? Ma che cosa fareste ai signori pedofili? È un tema interessante questo, uno come te davanti, cioè davanti alla, a un pedofilo, per esempio, no? Cosa faresti? Che domanda cosa difficile farei? Cioè no, un pedofilo un po' difficile, va ammazzato, guarda. Che ne so, va ammazzato un pedofilo? Un pedofilo va ammazzato, beh, insomma, non chiedetemi questo, cioè è una domanda molto difficile, soprattutto poi rispondere in radio. Io credo che gli canterei una delle mie canzoni più cattive in assoluto, sperando che scappi, guarda. Ecco, se sperando che sparisca, parlare, però scappare, sai. Sì. Scappare, non si sa mai, guarda, però insomma, sai, sono domande un po' particolari. Dai. Beh sì, sicuramente particolari, ma noi siamo particolari. Perché squadra tifa si va ad Avena? Guarda, io tifo per il mio Bologna, che spero si riprenda, sì. Perché insomma ogni tanto funziona, ogni tanto no. Hai visto che ha detto l'ex allenatore del Milan che le donne non possono parlare di calcio, eh? Le donne, no, donne però, non sono adatte a parlare di pallone. Però ho tifato anche Juve, ti dico la verità. Ho tifato anche Juve, ma ovviamente adesso tifo molto, molto per il mio Bologna, che amo profondamente, ecco qua. Vabbè. Ecco, scusami. Che è successo? Che è successo? Mi stavano telefonando. Certo, mi stavano chiamando, sto parlando con voi. No, ma la monogamia è interessante, perché io sono fondamentalmente... Come si fa a diventare monogami? Non si può chiedere però alla signora. No, ma dai, lei ma... l'ha detto. Grazie, guarda, ma quante brutte domande mi fai. No, ma la brutta, ma è sono cose fondamentali, la monogamia, noi ne parliamo sempre. Come si fa a essere a resistere alle tentazioni? È complicato. Bisogna essere bravi, fedeli, bisogna amare. Bisogna amare. Bisogna fare, bisogna e se guardare, c'è una tentazione davanti, un bel ragazzo davanti. Un bel ragazzo davanti, un bel ragazzo, uno che ti affascina davanti. Tu, se non c'è è un bel che... ragazzo davanti, lo guardi e basta, sto appunto. Cosa devi fare? Scusami. Senti, ma tu hai fatto un sacco di cose. Una cosa che ti piacerebbe fare ancora nella vita, che cosa? Tu hai fatto già. Sembri, non è che sei vecchia, sei giovanissima, perché anch'io, se no mi darei del vecchio anch'io. Una cosa che ti piacerebbe fare, guarda, il tuo sogno. Sicuramente presentare Sanremo. No, vorrei fare un musical, vorrei portare in scena una bella favola, sì, cantata e recitata, ballata, mi piace, a me piace moltissimo, mi piace moltissimo il musical, ancora non sono riuscita ovviamente a coronare questo grande sogno. Questa realtà, sì, infatti. Senti, ma tu ti piacerebbe fare l'amore con una donna? Hai mai baciato una donna? Basta, smettila. Io mi stanno chiamando e devo andare. Devo assolutamente andare. Va bene, allora io non ho la pancetta. Ho gli occhi verdi, ma non sono penetranti in realtà. Sono un rompicoglioni, sono abbastanza orso. Non ti lavi, no, faccio sesso decentemente. Non fai la doccia decentemente, diglielo. Ogni tanto con qualche picco, ma anche con qualche defiance, dipende dalle situazioni. Mi lavo molto poco, cioè mi lavo lo stretto, lo stretto necessario. Mi lavo, questa è l'identikit. Vabbè, questa è la patente. Questo è un bel problema, e sono okay. profondamente infedele. Scusa. Profondamente infedele. Questa, questa è la patente. Questa è la patente. Proprio c'è scritto sulla patente: profondamente infedele. Mi lavo molto poco, quanto necessario. Ho gli occhi verdi, quello sì. Penetranti, poi non sono io a deciderlo. Okay. Sesso, sì, abbastanza bene, però dipende poi dalle situazioni. Mi segnalano, però, giustamente una cosa per la signora D'Avena: che Kismiliccia e George erano un po' delle puttanelle sostanzialmente. Chi l'ha detto? Comunque siete terribili. Chi l'ha detto? Io già mi segnalano questa cosa giusta, devo dire. Che io avevo... terribili. Ma che? Ma no, siamo terribili. Un po'... No, ma sei muta, certo che siamo. Erano, scusami, D'Avena, signora Cristina, veramente, erano un po' allegrotte, diciamo. Questo me lo segnalano fonti autorevolissime che, come me, hanno vissuto quella generazione e conoscono i cartoni animati. Ma mi era sfuggito. Diciamolo ufficialmente. Conferma. Kismiliccia e George erano puttarelle. Diciamola tu fino in fondo. Ma non è vero, assolutamente. Ma chi te l'ha detta sta cosa? Stai cosa? Buono, è chi una persona che come me conosce i cartoni animati. Non è vero, non è vero, stai dicendo una bugia, non è vero. Allora, ma come no, Kismiliccia? Ma chi è che ti scrive? Erano allegrotte. Erano bravissime. Cioccole mi scrivono qui. Ma chi scrive? No, poi io tutelo la fonte. Questa è la fonte. Ma che bravissimi. Ma che terribili. Porca miseria. Ma che terribili, che terribili, dai. Che terribili. Dovresti venire accanto a noi in studio, sai che succede? Signora D'Avena. Ciao. Ciao, un bacio, ciao, ciao, ciao, ciao. Bacio enorme, ciao. Ciao, ciao. Dai, Davide da Napoli, vai, Davide, forza. Grande, Cruciani. Dimmi, dimmi. Senti, ma chi te l'ha detto a te sta cosa? Vabbè, perché? Ho sentito tre ore la telefonata, fammi dire qualcosa. Cioè, comunque ti volevo dire la cosa di Miano, cioè, no? Ma Parente è tutto stronzo proprio. Chi? Cioè, le donne devono... Parente, chi? Parente. Devono allenare pure le squadre di calcio. Ma che cazzo dice? Cioè, l'unica cosa che ci è rimasta ormai è lo sport, sono superiori in tutto. Si ammazzano pure i scarafaggi da solo, porca puttana. E mo devono pure allenare il calcio. Ma che allenare? Parlare, quello ha detto, non sono adatte a parlare. Parenti, allora, no, però, un mio no, amico no, che è, aspetta, no. Attenzione, un mio amico che è un giornalista di sport. Mi scrive: sarà pure sbagliato quello che dice Mikhailovic e non lo dovrebbe dire. E però io in tanti anni che faccio sport, che faccio calcio, mi scrive questo mio amico, non ho mai ascoltato da parte di una donna una ipotesi, una cosa sensata, una cosa sensata sul calcio. Oh, e ti assicuro, non è, ma non lo so se è misogino, però lui mi stava raccontando quello che gli è successo nella vita, cioè non ha mai sentito da parte di una donna una cosa sensata sul calcio. Ragazzi, questo è quello che mi dice lui, poi decidete voi. Dobbiamo chiudere, a bene, domani, a demain, che è venerdì, ciao. A Cruciani dico, togli Parenzo, chiama me, vedrai che faremo più audience. E poi, rispetto a Parenzo, io sono uno scienziato e lui un microbo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh? Radio 24. La passione si sente.